Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt, polverizzato da un team italiano, da un team del Politecnico di Milano, il precedente record della Shell Eco Marathon. Di che cosa stiamo parlando? Di una gara che si svolge su vari circuiti in giro per il mondo ormai da molti anni, gara in cui si vince non se si va più veloci degli altri, ma se si consuma meno energia. E negli anni siamo rimasti sempre più stupiti dalle prestazioni ottenute da questi veicoli. In realtà ci sono due categorie, una per i veicoli diciamo sperimentali e una per i veicoli più simili a quelli che potrebbero un giorno, un domani, circolare per le città. Ma siamo rimasti stupiti per anni dai risultati ed incredibilmente ogni volta questi risultati vengono superati, e non di poco. Questa volta la vittoria all'ultima Shell Eco Marathon, che si è tenuta dal 26 al 28 maggio presso il circuito Lausitz in Germania, è andata al team del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, al prototipo energia solare Apollo. Il team del dipartimento è guidato da Giampiero Mastinu, docente del Politecnico di Milano di costruzione di veicoli, che è in linea con noi. Buonasera Mastinu. Buonasera a complimenti, tutti. Complimenti. E c'è da fare i complimenti ai nostri ragazzi che sono stati bravissimi. Anche perché è un team numeroso, sappiamo che dietro a questa partecipazione, un po' tutti i team, non solo il vostro, ci mette veramente tantissima passione, tantissimo tempo, tantissimo lavoro gratuito. Io però lascio a dire a lei l'incredibile risultato a cui siete arrivati. Dica lei il numero. Sì, abbiamo fatto registrare un consumo di 1100 chilometri ogni kilowattora. Ecco, lo dica rispetto cosa alla benzina, che così capiscono tutti. Precisamente, avremmo percorso 9750 chilometri con un litro di benzina se il veicolo fosse stato alimentato appunto con la benzina. E so che vi lamentate che non avete toccato i 10.000. È il nostro prossimo record. È il vostro prossimo record, vabbè, insomma, il presente e il futuro si confondono. Senta, ma equivalente di un litro di benzina cosa vuol dire intanto? Vuol dire che noi, se avessimo il veicolo con un motore a benzina, con un litro di benzina riusciremmo a coprire una distanza di quasi 10.000 km. Invece l'energia non è, in questo caso, proveniente dalla benzina, ma è energia solare. Ecco, ci parli un po' di questo veicolo, di quali sono le sue caratteristiche. Sì, il veicolo è un prototipo, pesa circa 30 kg più i 50 kg circa del pilota. Della pilotessa. Elena Vagnoni. Precisamente, ha un alettone sul quale sono posizionati pannelli solari e quindi viene convertita l'energia che arriva dal sole in energia elettrica. L'energia elettrica muove un motore elettrico e il veicolo viaggia silenzioso per queste distanze. Velocità di punta? Circa 30 km all'ora. Un fulmine, insomma. Insomma. Un fulmine di guerra. Ecco, e qua entriamo dentro nella problematica, cioè effettivamente veicoli di questo genere hanno delle prestazioni incredibili, ma sono scomodissimi, lentissimi, poco sicuri se fossero messi su una strada, no? Sicuramente sì, perché il veicolo è molto molto basso, non si riuscirebbe, sì, a scorgere dagli altri veicoli, sì, ed è un veicolo pensato per fare il record e quindi nelle situazioni di sicurezza garantite da un circuito. Invece c'è un'altra categoria alla quale voi avete partecipato, in cui ci si avvicina, vero, ai veicoli stradali. Sì, è la categoria Urban Concept, per cui abbiamo sviluppato un veicolo che può trasportare anche oltre una persona anche della merce, quindi è un veicolo che potrebbe circolare su strada. Il nostro ha una carrozzeria avveniristica perché è molto molto aerodinamica, perché un veicolo aerodinamico efficiente aerodinamicamente può risparmiare energia anche se marcia in città. Anche in città. Ecco, una cosa che si dice spesso è che gli aerei più o meno sono tutti uguali come aspetto, perché si cerca l'aerodinamica, non sempre si cerca l'aerodinamica invece nei veicoli che girano per strada. Lei stava parlando di questo veicolo Urban Concept che si chiama Daphne, giusto? Precisamente. E ha avuto un consumo di 125 km per kilowattora. Se facessimo un raffronto con le automobili elettriche che stanno cominciando ad arrivare sul mercato, il raffronto sarebbe di 125 km per kilowattora di consumo contro i 5 km per kilowattora degli attuali veicoli elettrici, quelli che stanno entrando nel mercato. Quali sono allora i margini di miglioramento dell'efficienza di questi veicoli? Si può arrivare ai 125? Fino a che punto si può arrivare? Diciamo che il nostro veicolo è un concept e quindi non ha le caratteristiche di sicurezza e di comfort di un veicolo che può essere utilizzato anche per fare degli spostamenti anche fuori città. Quindi, tra i 125,5 dove potrebbe essere posta l'asticella? Diciamo che i veicoli attuali sono veri e propri veicoli con tutte le caratteristiche di sicurezza e di comfort che sono richieste dagli utilizzatori, e quindi questo valore 5 non è molto migliorabile, anche perché i veicoli devono costare molto poco, devono durare molto, e la ricerca che noi facciamo è determinare nuove architetture di veicoli per spostare questa asticella. Non sappiamo esattamente di quanto riusciremo a spostarla, perché bisogna fare un progetto e poi misurare a posteriori quello che si può ottenere. Certo, dalle nuove architetture di veicoli che possono andare verso i quadricicli leggeri si può guadagnare molto. Ecco, allora lei ha pronunciato la parola magica, tra virgolette, quadriciclo leggero, che oggi sembra essere la via di transizione in qualche modo scelta dall'industria automobilistica. Noi però abbiamo esaurito il tempo che abbiamo a disposizione oggi, quindi se a lei sta bene io la faccio tornare lunedì e riprendiamo questo discorso sui quadricicli leggeri, perché voi avete presentato un prototipo da questo punto di vista. Sì, con piacere, sarò a sua disposizione lunedì prossimo. Bene, allora, buon fine settimana a tutti.